Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Prima di andare ai temi del nostro sommario, Giorgio Mattei in regia alla parte tecnica, un ringraziamento a Laura Vanossi in redazione. Partiamo, Giorgio. Ascolta la tua voce, ti dà informazioni importanti sul tuo stato di salute. Fiocco Azzurro, nasce salute24.it, un nuovo portale dedicato all'informazione medica. È arrivato il vaccino antinfluenzale. Parliamo della voce, che è un po' il nostro biglietto da visita, la nostra firma, ci connota, ci rende unici e lo fa nel bene e nel male. Una voce ci può ispirare simpatia e fiducia o esattamente l'opposto, tranquillizzarci o infastidirci. E forse proprio perché siamo consci del suo potere che a volte ne vorremmo una diversa, ci piacerebbe più bassa, più calda, più profonda, più armonica. Bene, qualcosa si può fare, quindi se pensate che la vostra voce non vi rappresenti, la vostra voce non vi piace, iniziate a chiamarci 824 0024. Ci occuperemo di voi, ma ci occuperemo anche di chi ha a cuore proprio la salute della propria voce e quindi magari trova dei dettagli, dei segnali che possono un po' preoccuparlo, la voce che si vela, la voce che ha bisogno di essere in qualche modo schiarita, che si abbassa all'improvviso e poi si ripiglia. Ci sono delle situazioni assolutamente normali di malessere della nostra voce, magari temporanee, ci sono invece delle variazioni di voce che dipendono da un problema che possiamo così considerarlo magari come il nodulo o un polipo alle corde vocali. Di tutto questo parleremo oggi insieme ai nostri ospiti che ho il piacere di avere qua in studio con me, il dottor Andrea Franzetti, primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno. E noi abbiamo chiesto anche un aiuto ad Anna Del Santo, logopedista presso l'azienda ospedaliera di Legnano. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Franzetti, lei è contento della sua voce? Ah, io sì, soprattutto della mia R. E questa perché la rende un po' speciale? Perché è mia. Faccio subito lavorare la nostra logopedista. Il dottor Franzetti ha una voce particolare, caratteristica, sembra un po' bassa o mi sbaglio? Sì, però è molto controllata, molto misurata, melodica. D'altronde quindi corretta. Fa l'ottorino. Ma la domanda aveva una ragione. Io volevo chiedere se ascoltando il suono della voce, una addetta ai lavori della voce come un logopedista oppure un otorino laringoiatra riesce a capire se la voce sta bene, è un po' sofferente perché magari è un po' troppo sforzata o può avere qualche piccolo problema nell'ingranaggio di quella sorta di macchina che produce la nostra voce, che andremo poi a scoprire insieme al dottor Franzetti. Sì, sicuramente la voce è il nostro biglietto da visita ed è quella che ci dà l'indicazione se la nostra salute anche psicofisica è corretta e adeguata. Con la voce noi facciamo sentire le nostre emozioni anche, come in questo momento, sì, che sono molto emozionata, ci tradisce veramente. Però lei ha occhio, anzi ha orecchio direi. In questo caso riesce a capire se io sto sforzando la voce, se ho magari un problema di polipo, di qualche cosa che non funziona adeguatamente nelle mie corde vocali? Sì, ascoltando proprio il timbro, l'intonazione, l'altezza, la velocità della voce o ascoltando come parla una persona, se in apnea oppure respirando correttamente, si sente se può avere problemi oppure no. Oltre che se ha dei problemi oppure no. Allora, noi possiamo dire ai nostri ascoltatori di chiamarci, di farci ascoltare la loro voce e noi possiamo, non possiamo fare diagnosi telefonica, assolutamente no, ma dare qualche indicazione su come stanno usando la loro voce. Assolutamente sì. Dottor Franzetti, invece la voce, chi dice voce pensa alle corde vocali, però forse qualcosa d'altro funziona e si mette in moto per produrre la voce. Certo, perché la zona centrale dove si produce la voce è sicuramente la laringe, dove ci sono le corde vocali ed anche altri movimenti di abbassamento, innalzamento della laringe, che è fatta in vari modi. Ma poi sotto la laringe c'è come una specie di pompa che manda l'aria, che fa vibrare queste corde vocali, E questa pompa sono i polmoni. Sì. I polmoni che sono spinti da un muscolo che sta sotto di loro, che è il diaframma, e dalla gabbia toracica che si espande e si schiaccia. Sopra la laringe invece abbiamo come quella che possiamo chiamare la cassa di risonanza, che dà tante caratteristiche della voce, per cui c'è il cavo orale, c'è il rinofaringe, c'è il naso, ci sono i seni paranasali. È come se ci fossero tanti spazi dove l'aria che ha vibrato sulle corde vocali rimbomba, risuona e dà delle caratteristiche alla voce. Per cui se uno per esempio ha il naso chiuso parla in un certo modo, sì. Se ha il naso aperto parla da paperino, certo. Eccetera eccetera. Stavo pensando anche alla voce che è diversa nei popoli. Certo. Sarebbe un po' come paese che vai, voce che trovi. Mi viene in mente ad esempio la voce di un russo rispetto a quella di un orientale, di un... ci sono delle differenze? Certo, dipendono sono... da questa sorta di macchina che lei ci ha descritto o che cosa... Sì, ci sono molte differenze, ci sono differenze anatomiche. Il russo, per esempio, citato, ha una conformazione, una lunghezza della laringe che permette di fare delle ottave che, per esempio, un europeo o un asiatico non riesce a fare, per esempio, nel canto. Mentre invece il cinese piuttosto che il giapponese, cioè l'asiatico, ha non tanto una conformazione diversa ma un uso della voce e della risonanza della voce molto nasale, con dei suoni, delle alterazioni di toni su cui dà per esempio dei significati diversi alle parole che dice. Ci scrive già Elisa: come mai quando talvolta sono emozionata mi manca la voce? È un po' quello che dicevamo con Anna del Santo. La voce tradisce proprio le nostre emozioni, sì. A riprova che esiste uno stretto legame tra le nostre emozioni, la psiche e la voce. Sì, perché nel momento in cui si è presi da un'emozione per una situazione particolare ci si dimentica un po' di respirare e quindi... la voce riproduce quelle che sono le nostre emozioni di rabbia, di gioia, piuttosto che sentimenti di affetto, e tutto questo, se uno ascolta attentamente l'altra persona che c'è di fronte, si rende conto che gli vengono proprio trasmessi questi sentimenti attraverso la voce. Dottor Franzetti, noi parleremo dei segnali sospetti, di quelli che bisogna tenere in considerazione. Uno, arrivano già numerosi messaggi: schiarirsi la voce significa che qualcosa, la nostra voce ha bisogno di più riposo, maggiori attenzioni, oppure ce ne sono altri? Intanto la schiariamo. Sì, intanto la schiariamo. Tante volte è quasi un'abitudine. Certo, perché lo schiarirsi la voce può essere o un riflesso incondizionato, può diventare un'abitudine, un tic, e a volte esprime anche una situazione di disagio oppure di stato di ansia, di agitazione. A volte però è una cosa di cui uno non può farne a meno. Perché non può farne a meno? Perché sente un fastidio in gola, sì. Ma lo sente proprio. Un raspino, un grattino. Ma lo sente proprio, oppure sente una sensazione di corpo estraneo, qualcosa che non si muove. Allora inizia volontariamente, non come riflesso incondizionato. Un conto se uno raschia la voce mentre parla, come intercalare. E un conto invece se uno si deve bloccare la sua attività per continuare. Prendere voce. Esatto. Questo, secondo me, diventa già un sintomo di qualcosa. Altri sintomi? Altri sintomi sono gli abbassamenti di voce. Improvvisi, temporanei, duraturi? Allora, ci sono degli abbassamenti di voce che sono dati da quello che noi chiamiamo un surmenage della voce, cioè un utilizzo della voce in maniera anomala, che può essere acuto o cronico, e quindi uno ha in maniera altalenante un abbassamento di voce che poi riprende. Però un abbassamento di voce che dura per un certo periodo e non riprende dopo una settimana, dopo 8 giorni, inizia già a essere una cosa che deve essere indagata. Oppure possono essere delle alterazioni della voce, una voce bitonale, una voce che uno dice non è più la mia. Ci fa un esempio, Anna del Santo, per capire? Ad esempio quella voce che ogni tanto ci sono delle voci che saltano, un po' intermittenti. Sì, come ad esempio in questo momento potrei... avere una voce di questo tipo, oppure delle voci anche ad esempio in falsetto, quelle che parlano, che si sentono molto di testa, molto acute, dicono. Di testa, così potremmo dire. Quindi Tutti questi segnali vanno tenuti in considerazione. Certo. Se vi ritrovate in una di queste condizioni, chiamateci 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde sempre attivo. Ma intanto, dottor Franzetti, io gli ho dato un compito: preparare una domanda per i nostri amici che ci stanno ascoltando da casa. All'ascoltatore che ci invierà per primo la risposta esatta con una mail all'indirizzo di posta elettronica esserebenessere@radio24.it verrà recapitato a casa un libro. Mi raccomando, scrivete il vostro nome, il cognome, il numero di telefono e l'indirizzo. Allora, dottore, la domanda? Allora, la domanda è questa. Noi, soprattutto gli uomini, sì, davanti sul collo abbiamo quello che chiamiamo il cosiddetto pomo d'Adamo. Sì. Che si muove, che va su e giù e fa muovere appunto qualcosa che sta dietro. Questo pomo d'Adamo è una specie di scudo. È uno scudo che protegge qualcosa. Sì. Allora, cosa proteggerà questo pomo d'Adamo? La lingua? La trachea? Le corde vocali? Allora, la lingua, la trachea, le corde vocali, che cosa protegge il pomo d'Adamo? Questa è la domanda di oggi. Scrivete la risposta essere@radio24.it. Chiamateci 824 0024 se la vostra voce non vi piace, se la vostra voce vi dà qualche segnale sospetto, se cambia, se si abbassa, se va via, se si vela. Noi siamo qui per voi, a disposizione il dottor Franzetti e Anna Del Santo, logopedista. Una mela al giorno. Fiocca Azzurro nel gruppo del Sole 24 Ore nasce salute24.it, è un nuovo portale dedicato all'informazione medica, quindi regole di prevenzione, notizie dal mondo della ricerca, informazioni di servizio e poi in una sezione multimediale immagini, filmati, interviste con i professionisti del settore. In linea con noi abbiamo il responsabile editoriale Salvatore Patriarca. Salvatore, ciao, benvenuto. Ciao Nicoletta, buongiorno e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Essere Benessere. Grazie Salvatore. Allora, oggi una bella giornata. Anche sì, per... è un bel inizio, sì. È un bel inizio. Senti Salvatore, io entrerei subito nel portale. Sì. Andiamo alla sostanza. E l'occhio, sì, mi è caduto proprio su Occhio alla Salute, scritto con 2K. Sì, Occhio alla Salute è una ricerca fatta dal Ministero della Salute in collaborazione col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la salute alimentare dei nostri bambini. Sì. Quindi è stata fatta una ricerca sul modo con cui mangiano i ragazzi a scuola, su quelli che sono i problemi, sul fatto che molti bambini sono in sovrappeso, troppe merendine, troppa TV, mamme che si preoccupano troppo di alimentarli senza capire che forse il sovrappeso non è un ottimo viatico per crescere. Tutte queste tematiche, tutti questi numeri si trovano appunto in Tesoro, mi si sono allargati i ragazzi, parafrasando il titolo del film. Sì, senti, e quindi questo è un invito ai genitori in ascolto a far fare più attività fisica ai loro bambini. Prima noi avevamo i cortili, i giardini, adesso i bambini hanno il computer e la TV e diventano più sedentari. Senti Salvatore, c'è un'altra notizia che mi pare molto interessante, che è in tema proprio con l'argomento che trattiamo noi oggi, la voce. È una ricerca che arriva dall'Inghilterra, di cui parlate appunto su salute24.it, e parla della voce femminile. Sì, c'è questa ricerca dell'Università della California che ha avuto grande risalto in Inghilterra ma anche in organi di stampa americani, in cui si trova una correlazione tra l'aumento del tono di voce femminile e il periodo della fertilità. Quindi c'è una correlazione tra quando il tono della voce femminile si alza e il periodo di ovulazione della donna. Quindi un certo comportamento, una certa tonalità di voce probabilmente sono legati, in base a quello che dice questa ricerca, a una... Sentiamo subito il parere anche del nostro esperto, dottor Franzetti, che dice una cosa un po' simile capita nel mondo animale. Quello sicuramente, per esempio nei volatili questo capita. Ma può essere, non conosco questo tipo di ricerca. Vada su salute24.it Però sicuramente, come tutti i sistemi complessi, può essere influenzato da delle alterazioni ormonali. Certo. Salvatore, ti ringrazio per essere stato con noi. Buon lavoro, noi ci sentiremo presto, lavoreremo in sinergia e quindi sì, con voi, ma anche con il settimanale del Sole che è Sanità, con il giornale e con la redazione del .com. Quindi sentiremo spesso la tua voce, Salvatore. Grazie. A proposito Nicoletta. Di voce, grazie, buona giornata. Ciao, a presto. Ciao. Pronto soccorso. Torniamo ad occuparci della nostra voce per scoprire come utilizzarla bene, come preservarla e soprattutto vogliamo anche darvi gli strumenti, le indicazioni per riconoscere segnali di malessere, di cattivo funzionamento, di affaticamento. Allora, io darei voce ai tipi di voce, così che da casa possiate in qualche modo riconoscervi. Abbiamo individuato delle categorie, se così possiamo chiamarle, dei tipi di voce, dei paradigmi. Voi cercate di capire a quale di queste si avvicina di più la vostra. Partiamo da una voce roca. Sandro Ciotti, da Tutto il Calcio minuto per minuto. Brescia 1-0 per il Napoli, rete di Maradona a 4 minuti dalla conclusione del primo tempo. A te Ferretti. Questa è proprio una voce che tendenzialmente sforza molto la laringe, no? Però è una voce emotivamente molto calda, nel senso che si vede che quando lui incita oppure si entusiasma per qualcosa, la voce diventa leggermente più roca. Beh, è inconfondibile la voce di Sandro Ciotti, ma si potrebbe rieducare. Il dottor Franzetti ha detto sforza troppo la laringe. Si potrebbe con degli esercizi cercare di non sforzarla troppo? Sì, impostando una buona respirazione, però nel caso di Sandro Ciotti mi sembra di ricordare che così, fumava sì. Tantissimo. Lasciamola così. E quindi rimane roca anche per questo motivo. Allora, e noi invece andiamo ad una voce assolutamente diversa, una voce femminile, una voce acuta. Sandra Milo nella trasmissione Piccoli Fans. I protagonisti di questa giornata che sono? Vieni qua, Giorgio, e amore, ti è piaciuta nonna Silvia? Allora, questa qui, laringe piccola, usata, pompata tanto e tanto risuona nel naso anche qui. In questo caso è importante lavorare sulla tonalità, non tanto sulla respirazione, proprio per far ritornare la voce. Quindi deve scendere un po'? Di tono, sì, esatto. Beh, io adesso ho una voce profonda. Quella di Arnoldo Foà che ci fa sognare, che legge la poesia di Leopardi a Silvia. Un momento veramente magico, sentiamo. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Dottor Franzetti, questa è la voce, secondo me. È perfetta. Perfetta. È perfetta. Sì. E poi soprattutto a Silvia. Andiamo invece ad una voce calda, quella di Virna Lisi, tratta dal film Il Serpente. Oh, molto male. Preferirei parlare italiano o in francese, se vuole. Mio marito è americano, io sono italiana. Ma la cosa non ha importanza, vi risponderò di te pure. Qui io farei notare proprio la respirazione perfetta. Non a caso Virna Lisi è un'attrice, sono veramente sì, Arnoldo Foà e Virna Lisi lavorano molto sull'impostazione della voce, quindi devono avere un controllo completo sui muscoli che aiutano la respirazione e loro riescono, controllando bene il movimento respiratorio, ad avere un'emissione vocale corretta e adeguata che esprime anche le emozioni in modo, possiamo dire, armonico. Armonico, sono perfetti. Andiamo a Maya che ci chiama da Bari, 824-0024. Maya, buongiorno. Buongiorno, dottoressa Carbone. Sto ascoltando la sua trasmissione. Il mio quesito è questo. Io penso di avere una voce abbastanza nasale, insomma è una vita così che me lo dica, che più che altro lo sento. Ultimamente sto avendo dei problemi di ansia, tipo una fame d'ansia per cui devo tirar su ogni tanto perché non ce la faccio a respirare. E questo tipo di voce si sta accentuando. E la domanda era se ci sono delle tecniche, qualcosa che posso fare. Perché Maya, lei sente di avere, ha la sensazione di avere la voce nasale. Ma intanto lei come respira dal naso? Soggettivamente le sembra di respirare bene o male? No, non respiro perché è tutto, come dire, di gola. È tutto di gola, respira con la bocca aperta, Maya. Sì, quasi sempre, credo. Veramente è una cosa che io non è che ho notato. La prima molto cosa da fare sarebbe guardare il naso. Allora, Maya deve andare a farsi vedere il naso da un otorino. Che cosa gli farà Maya l'otorino? L'otorino le guarderà nel naso, vedrà se c'è prima di tutto qualche ingombro anatomico al flusso aereo normale, farà magari qualche esame per vedere se c'è un flusso aereo adeguato nel naso e se c'è qualcosa di alterato bisognerà decidere che cosa fare, se di medico, di chirurgico o quant'altro, per migliorare la respirazione nasale, e di conseguenza questo poi dopo andrà anche riabituata a un certo modo di respirare, di parlare, ma dopo aver messo a posto il naso. Maya, però a me la sua voce non sembra nasale. Chiediamo ad Anna del Santo. Sì, a me non sembra particolarmente nasale. La voce di Maya ci piace. Evidentemente sì. Maya ha questa sensazione di disagio a livello respiratorio. Maya, dobbiamo respirare con il naso comunque, perché la nostra voce ci guadagna. Voce, fateci sentire la vostra, 824 00 24, consigli per farla lavorare bene, segnali per non da tenere in considerazione per non affaticarla troppo. In linea con noi abbiamo Adele da Brescia. Adele, buongiorno. Buongiorno, io intanto vi ringrazio e dico buongiorno a tutti. Buongiorno. Tanto che aspettavo buongiorno questo argomento, perché a volte mi mette anche in imbarazzo il fatto che quando mi fanno notare che il mio tono di voce è abbastanza alto. Ma chi le dice così? Ma chi è che glielo fa notare? Perché io inizio a parlare normale, poi involontariamente mentre parlo io alzo il tono di voce. E mia figlia mi dice: mamma, perché urli sempre? Smetti di urlare, urli sempre. No, immaginavo che dietro ci fosse la critica di una figlia o di un figlio, perché sono sempre crudelissimi, Adele. Premetto che magari quando sono al telefono con qualcuno ho il tono di voce più alto del normale, quello me ne rendo conto. Oppure ho un tono di voce abbastanza ansioso anche. Quanti complessi? Volevo chiedere se esistono qualche tecniche per migliorare questo. Adele, intanto non è una malattia quella che ha, no, quindi è una cosa che lei può desiderare correggere. Allora, esiste un modo per cercare di diventare più coscienti della propria voce e quindi anche di modularla diversamente. Può essere aiutata in questo da una logopedista e dopo magari Anna dirà qualcosa più in merito. Però, per esempio, una cosa molto semplice che può fare è intanto rendersi conto di come usa la respirazione, magari appoggiando una mano sulla pancia. Proviamo a farlo e cercando tutti. Proprio sulla pancia, cercando quando inspira di sentire la pancia che si muove e il muscolo che si muove, e la pancia dovrebbe venire un po' in fuori, quasi come spingere un po', e poi dopo quando inspira invece la pancia va in dentro. E noi esattamente facciamo il contrario. Ecco perché è sbagliato, perché lo facciamo in maniera troppo istintiva. Quindi è il contrario di quello che facciamo. Bisognerebbe prendere coscienza di questo muscolo. Ripetiamola. Allora, bisognerebbe fare un esercizio in cui quando l'aria va dentro si spinge in fuori con la pancia e quando l'aria va fuori si tira in dentro la pancia. Io potrei indicare un metodo pratico che inizialmente può essere utile per cominciare a diventare coscienti della respirazione. È quello di mettersi sdraiati sul letto e porre un bel vocabolario o di latino o un rocci di greco. Esatto, sulla pancia. E inspirare guardando il movimento del libro. Se il libro si allontana, se la pancia si gonfia, diciamo proprio in modo semplice, vuol dire che si sta facendo l'atto corretto. Nell'atto ispiratorio invece il libro si deve riavvicinare la pancia deve rientrare, praticamente il vocabolario va giù. Questo è proprio la respirazione corretta. Inizialmente è meglio farla da sdraiati perché è il metodo più semplice, sì, perché in piedi o sedute diventa molto più difficoltoso. Inoltre volevo dire sul discorso dell'ansia, spesso i pazienti che vengono per la rieducazione hanno problemi di ansietà, problemi emotivi legati proprio alla situazione che si crea per questa difficoltà a, diciamo, non riuscire a comunicare nel modo corretto con gli altri con una voce adeguata e melodica. E questo, quello che si può fare è fare rilassamento corporeo, proprio imparare a rilassare ogni distretto muscolare di tutto il corpo, diventando coscienti di quello mano a mano poi si arriva a essere più coscienti di quelli che sono i muscoli che si usano non per la respirazione. Non arriverà la voce di Virnalisi, ma insomma... No, si arriva a una bella voce. Andiamo a sentire la voce di Lorella che ci chiama da Varese, 824 0024. Lorella, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io telefono per questo motivo. Io ho una voce abbastanza monotono e mi dà qualche difficoltà sul lavoro perché la uso, diciamo, come strumento di lavoro e dopo un po' mi si affatica, cioè se parlo per un po' di tempo mi sento stanca. Ecco, volevo chiedere un consiglio. Lorella, che lavoro fa? Lavoro come informatore medico. Ah, ho capito. E quindi parlano. Dottor Franzetti. Parlo, anche. Dottor Franzetti, un consiglio per Lorella. Allora, io ho una storiella. Nel senso che io sono molto affascinato dalle suore di clausura. Come mai? Che praticamente quando pregano usano sempre la voce monotono. E seguo spesso alcune suore che hanno una problematica proprio legata a questo, perché l'utilizzare sempre la stessa nota quando uno parla e le uniche volte che parla può portare a un'impostazione sbagliata delle corde vocali e ha bisogno proprio di essere seguita come un professionista, un attore o cose del genere, perché altrimenti a lungo andare la voce si affatica a tal punto da non riuscire neanche più a produrre quella nota lì, a faticarsi sempre di più, e quindi è come se studiando anche queste suore eccetera mi sono reso conto che l'utilizzo delle corde vocali in monotono è un utilizzo funzionalmente sbagliato. Per questo io consiglio a loro di avere proprio delle maestre, delle logopediste o delle foniatre che le aiutino a utilizzare altri toni, altre impostazioni, altri tipi di respirazione. Sì, anche perché il range dinamico della voce, parlando in termini tecnici, ha delle armoniche molto vaste che vanno fino ai 4000 Hz, quindi utilizzando un solo tono è come se si utilizzasse una sola frequenza, mentre invece noi abbiamo la possibilità di utilizzare fino a 4 frequenze diverse. Per questo che quando parliamo riusciamo ad avere intonazioni diverse, perché usiamo maggiori armoniche. È come lavoro se avessi una macchina e va sempre in prima. Esatto, proprio quello che veniva in mente a me. 824 0024, con questo numero ci ha raggiunto Francesco da Torino. Francesco, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Sì, grazie. Niente, io dei consigli. Sono stato operato quasi esattamente un mese fa di un polipo alle corde vocali. Per fortuna il risultato... Francesco, io la sento malissimo, nonostante la sua voce sia bella, vero? Anna sì. Del Santo conferma. Questo è anche un gusto femminile, no? Allora, noi richiamiamo Francesco da Torino. Intanto sentiamo Patrizia da Pavia. Patrizia, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Allora, io non ho un problema, era una curiosità. Siccome la mia voce mi sembra molto acuta, sì, a volte per telefono mi scambiano per una bambina e io ne approfitto a volte, ah, sì, quando eh? Disturbano. Dice, no, non c'è nessuno, mio papà e la mamma sono fuori. Sì, brava, così. E mi è capitata di sentirmi su di una registrazione, sa, una volta si registrava. Sì. Mi sembra veramente bruttina. Guardi Patrizia, capita una cosa strana. Quando già ci vediamo nei filmini, ci troviamo orrendi. Se ci riascoltiamo la voce, peggio ancora. E proprio abbiamo difficoltà a... così conoscere la nostra voce e riascoltarla. Patrizia dice: ho la voce acuta. Io, dottor Franzetti, Anna del Santo, che voce ha? A me sembra una voce come da non attacco delle corde vocali. Sì, infatti, mi corregga se sbaglio. Secondo me andrebbe fatta una valutazione. In questo caso andrebbe fatta la visita. Perché? Perché probabilmente qui c'è un carico eccessivo della parte anteriore delle corde vocali e uno sfiato dietro. È come se sfiatasse dell'aria. Sì. E gli dà la sensazione dell'acuto, ma non è un problema di acuto, secondo me, è proprio un problema di tono chiudere. Eccessivo che non fa chiudere bene le corde vocali. Sto andando a orecchio. E a naso anche, dato che lei è anche un otorino. Però andrebbero viste queste corde vocali. E in questo caso la rieducazione si occupa proprio di far lavorare bene le corde vocali utilizzando quello che si chiama l'attacco duro, mentre normalmente si dice al paziente disfonico di cercare di non parlare con un attacco duro, come ad esempio se io devo fare un vocalizzo e invece di dire in modo fluido, fluente, generalmente partono con questo modo, con un e. In questo caso invece la signora deve proprio fare questo esercizio, perché partire di botto in modo che le corde vocali si possano diciamo chiudere in modo adeguato. Siamo tornati insieme, abbiamo raggiunto anche Francesco da Torino, ma prima di occuparci di lui diamo la risposta alla nostra domanda, dottor Franzetti. Allora la domanda era il pomo d'Adamo, che è quella cosa che sta davanti al collo più pronunciata negli uomini, che si muove su e giù quando deglutiamo, che cosa protegge? La lingua, la trachea o le corde vocali? La risposta giusta era, Nicoletta? Le corde vocali. E la prima mail arrivata al nostro indirizzo con la risposta giusta è quella di Leo, che grazie all'iniziativa di Internet Bookshop riceverà a casa il libro dal titolo Psicologia della musica, Carrocci Editore. In collaborazione con IBS.it. Francesco da Torino a noi, buongiorno, ribuongiorno. Speriamo che mi senta meglio. Perfetto. Senti, io la sentivo già bene prima. Senta, intanto complimenti, come hai detto prima, per la trasmissione. Purtroppo non riesco sempre a mettermi in contatto, ma oggi sono riuscito e sono contento. Bene. Sono operato un mese esattamente fa di un polipo alle corde vocali. Sì. Per fortuna è risultato negativo il suo, eccetera. E tutto sommato la mia voce è tornata normalissima, anche sì. Se era due mesi che avevo la voce rocca, e tra parentesi il mio medico di famiglia non voleva mandarmi a fare la visita, se non era mio figlio che insisteva. Poi sono andato, il medico dell'ospedale Gravenigo di Torino, sì, molto le ha trovato questo polipo e lei è stato operato. Adesso la sua domanda, Francesco, qual è? La mia domanda è questa. Io soffro, premesso che soffro di reflusso esofageo. Sì. Parlo tantissimo. Dicono, mi gridano sempre mia moglie e mia figlia. Sì. Quindi soffre di reflusso, è stato operato di polipo, Francesco, deve avere delle cautele particolari? Francesco, è questa la domanda? Come mi devo comportare? Come si deve comportare il nostro amico Francesco? Intanto, dottor Franzetti, approfitto della telefonata di Francesco per chiederle. Ci sono dei sintomi, delle variazioni di voce, nel tono, mi dica lei, che possono farci sospettare che si nasconda un polipo o lo vedete solo voi? No, allora, intanto facciamo finta che noi ci vediamo tra un po'. E io inizio a parlare in questo modo qua e faccio proprio fatica a parlare sempre di più. Ecco. E io dirò, ma dottor Franzetti, cosa è successo? Non sa che è un polipo? Direi così. Per esempio, no, non so se è un polipo, però... In questo caso un'alterazione della voce in questo modo, che si protrae per un certo periodo, sicuramente va indagata. Sì. Il polipo è un fatto infiammatorio, come giustamente ha dimostrato anche l'esame istologico, che giustamente è stato fatto. È un fatto infiammatorio che potrebbe anche essere stato provocato da un problema di reflusso gastroesofageo, che aumenta l'acidità di una zona che invece dovrebbe avere un pH diverso. Acida. Per cui... Se lui ha un reflusso medio o abbastanza importante, la prima cosa da fare è curare il reflusso. Curare il reflusso, ma avvertenze particolari per le persone che sono state operate di polipo? Beh, sicuramente eliminare tutto ciò che può dare un'infiammazione della mucosa. Prima cosa il fumo passivo, fumo attivo. Dopodiché sicuramente se è una persona che utilizza tanto la voce, siccome il polipo può essere la conseguenza di un nodulo, che è un calletto il nodulo, che viene perché uno sfrega in maniera anomala le corde vocali e poi dopo, diciamo così... Come un calletto nel piede. Sì, come un calletto nel piede, che però a un certo punto va incontro a un fatto infiammatorio e si gonfia. Quindi se uno usa la voce professionalmente, secondo me qualche esercizio potrebbe essere utile. Vogliamo suggerirne uno? Anna De Santo, che ogni tanto ho chiamato Del Santo, ma è sempre De Santo? Sì, gli esercizi sono, diciamo, sempre gli stessi, anche se poi vanno adattati a seconda, certo, della persona, però... ovviamente, che sia di fronte. Comunque, sicuramente una buonissima respirazione, perché i noduli vengono proprio perché generalmente si parla in apnea. Nel momento in cui io parlo in apnea, sfrego le corde vocali, appunto, non do lo spazio come quando vengono i calli nel piede, e si formano queste callosità. Quindi la respirazione è fondamentale, proprio la corretta respirazione. Il nostro amico parla un po' veloce. Il nostro amico parla un po' veloce. Breaking news. È stato assegnato il Nobel per la chimica 2008, è stato assegnato a Osamui Shimomura, Martin Chalfi e Roger Tsien per la scoperta della proteina fluorescente GFP. Ne parleremo diffusamente nella nostra edizione del giornale Extra Large, in onda dalle 13. E noi siamo invece di nuovo qui e ci ha raggiunto il nostro influenzologo preferito, il professor Pregliasco. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti, buongiorno. Arrivare dopo l'annuncio di un Nobel, beh... professore, sì che sono bravi. Noi abbiamo concluso in pratica la nostra trasmissione sulla voce e c'è una notizia che vorrei commentare con lei. È arrivato in farmacia il vaccino antinfluenzale, ma è già tempo di vaccinarsi? È solo l'inizio della stagione vaccinale, che noi suggeriamo di fare con calma e tranquillità, e direi nel mese di novembre è il momento migliore, ma addirittura la si può fare fino a fine di dicembre. Bisogna fare la vaccinazione, perché purtroppo in questi anni ancora non c'è un grande convincimento, però inutile accalcarsi per anticipare troppo la vaccinazione, che poi può determinare delle riduzioni di copertura, perché l'efficacia va all'incirca per circa 6 mesi, quando e se la stagione influenzale dovesse evidenziarsi più avanti nella fase, diciamo, finale dell'inverno. Grazie professor Pregliasco, quindi il vaccino è disponibile, aspettiamo a vaccinarsi. Con calma, con calma. Alla ASL, per tutti i soggetti a rischio che ne hanno diritto, seguendo quindi le indicazioni attraverso l'eventuale vaccinazione diretta dal medico di famiglia o nei distretti. Grazie professor Pregliasco, e io ringrazio anche i nostri ospiti che ci hanno accompagnato per questa trasmissione. Possiamo ringraziarli e invitare i nostri amici da casa, se hanno dei dubbi, dei timori, vogliono raccontarci qualche cosa, scriverci a esserebenessere@radio24.it. Il dottor Franzetti risponderà naturalmente alle vostre domande, le gireremo anche ad Anna De Santo. Vi ringrazio, grazie, vi auguro una buona giornata. Mi raccomando, respirate bene, usate bene la vostra voce. Noi abbiamo imparato a respirare. Grazie ad Anna De Santo, grazie al dottor Franzetti. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata, chi ha ascoltato Essere Benessere. Vi aspetto domani dopo il GR delle 11, con la voce o magari con la voce anche un po' giù, non importa. A domani.